Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di un sentimento e di una pratica assai diffusi e che sono stati capaci di dare una svolta alla storia e anche naturalmente alla vita di molte persone, cioè del tradimento. E questo è proprio il titolo del libro di Giulio Giorello, un famoso filosofo, che ha pubblicato con Longanesi, 266 pagine, 14,90 euro. Sottotitolo del libro: In politica, in amore e non solo. Il tradimento in fondo è stato svilito negli ultimi anni perché è stato immiserito nella immagine delle transumanze parlamentari diventate frequenti appunto negli ultimi mesi nel Parlamento italiano, ma il tradimento è una cosa assai più seria, dominato tra l'altro da figure letterarie e storiche che sono entrate spesso nell'immaginario collettivo, a partire da quello forse più famoso di tutti, che è Giuda, che secondo alcuni studiosi avrebbe tradito Gesù sentendosi tradito lui stesso da Gesù, che non aveva accettato di diventare un leader politico. Del traditore Giorello dà in questo libro la seguente definizione: chi illude gli altri e magari se stesso grazie alla capacità di varcare ogni limite sfidando natura e fortuna, addirittura la volontà divina. La sua opera investe così la cosmologia, la politica, la teologia, la metafisica, l'etica, l'arte. E su questi aspetti appunto Giorello poi approfondisce il suo libro, e di questo gli chiediamo adesso qualche notizia. Buongiorno a Giulio Giorello. Salve. Allora, Giulio Giorello, uno dei primi personaggi letterari che incontriamo nel suo libro è Tex Willer, che qui appare come vittima del traditore, rispetto al quale traditore egli commenta con queste parole. Scrive Tex Willer: era un tipo a posto, ma le vicende della vita mettono spesso di fronte a ricatti ai quali nessuno riesce a sottrarsi. Insomma, il tradimento è più una scelta o un destino? Sembrerebbe nel caso del traditore del racconto di Tex Willer, che tra l'altro è stato scritto da Guido Nolitta, cioè da Sergio Bonelli, il figlio di Gianluigi, il creatore di Tex, sembra in questo caso il tradimento sia un destino più che una scelta. La scelta è stata prima, quella del traditore in questione, che è un agente governativo, un ex colonnello dei Rangers, il quale si è dato alla politica e, dandosi alla politica, ha venduto, come direbbe Tex, l'anima al diavolo. La morale, se una morale c'è di questo bellissimo racconto di Bonelli, di Junior, è che la politica porta sempre dentro di sé il tarlo del tradimento. Tex, da ingenuo, è colpito da questa cosa, ma il figlio Kit, che è suo aiutante in questa storia, e ha studiato all'Est, avrebbe potuto indicargli delle buone letture, per esempio quel Niccolò Machiavelli, che aveva avuto anche tanta fortuna nel mondo anglosassone, sia nelle isole britanniche sia nelle colonie di lingua inglese del Nord America, grande libertario, ma nello stesso tempo anche spietato teorico dei meccanismi della politica. Machiavelli ci dice: il politico deve tradire, non sempre, ma può essere malfido proprio quando conviene, secondo la logica della situazione. E quando lei parla di politica, trattando del tradimento, dedica un capitolo all'esperienza sovietica, in particolare staliniana. Sì, perché mi è sembrata forse l'esperienza dei vari totalitarismi del Novecento più significativa proprio alla luce del tradimento. Quando c'è la guerra di classe, dicevano Lenin e anche Trotsky, è legittimo tradire il nemico di classe, anzi si deve far così, ma naturalmente quando poi lo sfruttamento di una classe sull'altra sarà abolito, la società che verrà fuori sarà una società senza tradimento, come dovrebbe essere addirittura senza Stato, così almeno voleva Lenin. Peccato che nella realtà dei fatti questo tentativo di costruire una società senza tradimento può essere messo in pratica soltanto usando il tradimento in maniera paranoica od ossessiva, e in questo senso Stalin è esemplare. Il giovane Stalin, quando ancora non è Stalin, no? Quando è ancora Dugashvili, lì è semplicemente, oppure comincia a usare degli strani nomignoli che richiamano eroi banditeschi o romantici della sua Georgia. Ecco, giovane Stalin è ossessionato al tradimento, lo era già in seminario, e poi quando sarà giovane bandito, e poi quando sarà apprendista rivoluzionario, finché, ritrovandosi in Lenin, metterà il tradimento al servizio della causa, salvo essere spietato con i possibili traditori, perché è meglio prevenire che dover curare dopo. Dunque, la politica che vorrebbe essere senza tradimento è quella che di fatto è costretta a liquidare senza pietà tutti come potenziali traditori. Un insuperabile descrittore dei traditori, a parte Shakespeare, fu Dante, il quale colloca il tradimento al centro della terra. Perché se questa scelta, secondo lei? Perché nella visione geocentrica che Dante eredita da Aristotele e da Tolomeo, no, nella tradizione che si chiama Aristotele Tolemaica, ma connotata religiosamente, il centro della terra è il posto più lontano da Dio e quindi è la sentina del male, una specie di fogna o di cloaca dell'intero cosmo, e quindi nel posto più infimo e desolato ci deve essere la punizione del peccato, che è il più terribile per il cristiano Dante. Peccato di tradimento è stato commesso da Lucifero contro il suo creatore, e adesso Lucifero è diventato un congegno, una macchina spietata, una specie di automa che divora i tre traditori massimi, che sono Giuda, come ovvio, ma anche Bruto e Cassio, coloro che hanno attentato alla serenità dell'impero romano, che era la condizione politica per la quale poteva poi diffondersi in tutto il mondo allora conosciuto, il messaggio di Gesù. E Bruto e Cassio introducono il capitolo sulle riflessioni filosofiche, nelle quali troviamo un'immagine, un personaggio forse inatteso, e cioè Giacomo Leopardi. Cosa dice Leopardi sul tradimento? Leopardi è un'altra figura ossessionata dal tradimento, ma per Leopardi il peggior tradimento è quello dei filosofi, i quali, togliendo con la loro critica razionalistica spazio alle illusioni, lasciano soltanto l'apparire del vero. L'apparire del vero è la tragicità senza appello della vita. Quindi una persona che ha perso ogni illusione diventa un cinico, una persona che considera la virtù di un tempo solo una dote da minchione, è terminologia leopardiana. E non a caso Bruto, in Leopardi, come è ben noto, bestemmia la virtù, dice di essere stato ingannato da un fantasma, anche se poi muore da coraggioso, mentre la luce della luna contempla la tragedia della Repubblica Romana e non può fare niente perché è la luna di Galileo e di Newton, quindi è un pezzo di fisica, i pezzi di fisica non hanno sentimenti. Poi ci possono essere anche dei traditori o delle traditrici simpatici o simpatiche, adesso ne sentiamo una. Questa era Despina, del Così fan tutte di Mozart. Ecco, come mai dei traditori simpatici? Intanto bisogna dire che Despina gioca nel campo della commedia sentimentale, in un qualche modo, cioè quell'intrico di affetti, di passioni, di amori, in cui Da Ponte e Mozart si rivelano maestri. Così fan tutte, per mostrare che l'adorato, che la donna è mobile, insomma, che la donna è mobilissima da questo punto di vista, ma anche i maschietti qualche volta tradiscono, anche se sono convinti di agire in buona fede. Allora, invece di scannarsi per i propri reciproci tradimenti, è meglio capirsi e in qualche modo assolversi dopo aver inteso il nodo di emozioni che ci muove. Ecco, quindi Mozart e Da Ponte in Così fan tutte in qualche modo realizzano un'idea spinoziana, quella di di capire i moventi delle azioni umane, non condannare e sostituire alla repressione violenta la comprensione dell'altro. In questo senso Despina è poi quella che mette in gioco tutto quanto l'inghippo in Così fan tutte, e quindi è lei questo Spinoza in gonnella, insomma, forse un po' più amabile del filosofo dell'etica, certo più leggiadra e attraente e comunque meravigliosamente simpatica e intelligente. Grazie a Giulio Giorello, autore di Il tradimento. Buona domenica. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parlavamo dunque di tradimento e allora vi propongo una riflessione su un aspetto particolare, è una riflessione sul traditore che ha preparato Achille Bonito Oliva, il quale ripubblica un libro di circa 40 anni fa, L'ideologia del traditore, arte, maniere e manierismo, pubblicato da Electa, 254 pagine, 35 euro. Qui il traditore assume un valore simbolico, l'analisi è condotta sul piano dell'arte figurativo. Per Bonito Oliva il traditore in arte è chi gioca sull'arrovellamento, sulla riserva mentale e sull'obliquità di una figura, quella che io appunto ho chiamato del traditore. Questi, per definizione, occupa lo spazio della lateralità e dello sdoppiamento, il luogo impervio della finzione e della scissione. E la sintesi perfetta di questo atteggiamento, secondo Bonito Oliva, è proprio la tradizione del manierismo, perché l'artista manierista, scrive, fa un uso dissimulato delle categorie rinascimentali di mito, dramma e tragedie, generalmente costruite sull'asse di un unico perturbante, capace di portare una tensione che introduce uno squilibrio dentro il sistema di quiete. E nel libro troviamo un'analisi affascinante dei risultati di questo stile manieristico, illustrato anche con molte immagini dei capolavori di quell'epoca. Una testimonianza invece letteraria perfetta, secondo me, del dramma del tradimento amoroso è quella di Stefan Zweig, il grande scrittore austriaco, vissuto tra il 1881 e il 1942, di cui Adelphi pubblica Paura, 10 euro, 114 pagine, tradotto da Ada Vigliani. La trama del libro è apparentemente banale, troviamo una signora annoiata della buona società viennese che cede alla passione per un giovane artista, ma questa trama riesce a descrivere analiticamente, freddamente, il travaglio psicologico della protagonista, in questo caso appunto della traditrice, con un colpo di scena finale. E sentite qui, da queste righe, come possa scattare il tradimento, con delle parole che in fondo riprendono alcune immagini usate poco fa da Giulio Giorello. Aveva conosciuto quel giovane, un pianista di fama, pur se in ambito ancora circoscritto, per caso durante una serata in società. E qualche tempo dopo, senza volerlo davvero e quasi senza rendersene conto, era divenuta la sua amante. Di fatto, non c'era stata alcuna attrazione fisica. Il loro legame non aveva nulla a che fare con i sensi e, in fondo, neppure con lo spirito. Si era data a lui senza sentirne il bisogno e senza provare un vero desiderio, per una certa quale indolenza nel resistere alle sue avance e per una sorta di curiosità inquieta. Nulla in lei l'avevano indotta a cercare un amante. Ma esistono atmosfere molli che accendono i sensi come un clima torrido o tempestoso. Esiste una felicità ben temperata che eccita più dell'infelicità. E per molte donne, l'assenza di desideri risulta ugualmente fatale quanto la continua insoddisfazione generata dalla mancanza di prospettive. La sazietà non è meno tormentosa della fame, e quella vita protetta, priva di pericoli, suscitava in lei la curiosità dell'avventura. Dal tradimento passiamo a un'altra debolezza, per non dire a un altro peccato, e cioè la gola, che troviamo nel libro di Florent Cayet, che è uno storico francese esperto di alimentazione, il quale ha pubblicato il libro Gola, storia di un peccato capitale, pubblicato da Edizioni Dedalo, 222 pagine, 22 euro, tradotto da Vito Carrassi. Questo è un libro anch'esso magnificamente illustrato che racconta la storia dell'evoluzione dell'atteggiamento verso il cibo e la tavola. Un atteggiamento che è stato segnato da tre possibili varianti, quelle dell'ingordo, del goloso e del gastronomo. Il primo termine, scrive l'autore, denota un difetto, una condotta disdicevole. Il secondo, goloso, una gioia di vivere istintiva primordiale. E l'ultimo, gastronomo, un apprendistato serio, un processo educativo. Oggi la gola in qualche modo è ancora un peccato, perché contraddice quello che lo scrittore chiama il culto laico del corpo giovane, sodo e slanciato. Ciò nonostante, aggiunge, la gola non ha alcuna intenzione di capitolare e trova la sua nuova legittimazione sociale scrive l'autore, nel tentativo di creare un ibrido capace di tenere insieme il goloso buontempone, il gourmet cultore dei sapori legati al territorio e il gastronomo elitario. E allora nel libro troviamo questo cammino nell'ingordigia, nell'atteggiamento religioso verso la gola e la tavola, nel sentimento popolare, nella divisione di genere anche, perché per esempio un capitolo fa riferimento alla gola come debolezza del sesso debole, almeno così la vedevano. Un cammino, dicevo, che sostanzialmente racconta di questo continuo sforzo di legittimazione della cucina, della tavola e del gusto per il cibo. Un libro anch'esso culinario è quello di Giuseppina Torregrossa, Panza e Presenza, è pubblicato da Mondadori, 192 pagine, 10 euro. Questo romanzo sui generis, con un taglio che riguarda appunto la gola, perché la trama ruota intorno ad alcune cene di cui troviamo anche le ricette molto approfondite e dettagliate, tutte ricette della cucina siciliana, dalla pasta con le pezze, che sono le foglie delle zucchine lunghe, fino alle lumache e al gelo di cannella, un libro adatto all'ora nella quale ci troviamo. Questo libro, sappiate, è un giallo in una Palermo sudata e barocca, ma anche multietnica, come dimostra la contemporaneità del Ramadan e della festa di Santa Rosalia, che il libro descrive nelle righe che vi propongo. In quel momento una folla bianca e vibrante aveva invaso il prato del Foro Italico. Dai quartieri di Palermo affluivano verso Sant'Erasmo uomini dritti e alteri. Come fossero un unico corpo, si fermarono tutti nello stesso momento, le spalle verso Monte Pellegrino, i volti diretti alla Mecca. Era la fine del Ramadan. Le galabeia candide ondeggiavano alla brezza del mattino. In quella moschea a cielo aperto, come velo trasparente, il silenzio aveva delimitato uno spazio sacro. Tacevano i gabbiani, testimoni inconsapevoli di una democrazia antica. Gli uomini si piegarono sulle ginocchia. L'imam intonò la preghiera di saluto al sole, che li ricambiò, inondandoli di una luce dorata. Un po' discosta su Piazza Calza, Santa Rosalia, ancora in piedi sul carro che l'aveva portata in processione, sorrideva sorniona e benediceva compiaciuta i palermitani tutti. Non c'è città più tollerante e accogliente, più rispettosa e comprensiva di Palermo. Abbiamo parlato di Mozart e di Dante, parlando del tradimento, e allora rovesciamo il discorso dai vizi alle virtù, e quindi vi presento il libro di Maria Soresina, che è una grande dantista, che ha scritto Mozart come Dante, il flauto magico, un cammino spirituale. È pubblicato da Moretti e Vitale, 184 pagine, 15 euro. Il libro è un'analisi puntuale, scena per scena, del capolavoro mozartiano, che viene interpretato come un percorso morale simile a quello effettuato da Dante, e come quello di Dante è orientato alla ricerca di un'armoniosa unità primordiale, un'unità perduta per sempre, che trova espressione sia in Dante che in Mozart, secondo l'autrice, in una visione geometrica. Per Dante in Dio come tre cerchi che conclude il suo cammino, e invece nell'ultima scena del flauto magico come un triangolo. L'unità raggiunta alla fine del cammino di Pamino è una trinità. E Dante ancora troviamo nel libretto di Massimo Cacciari, doppio ritratto San Francesco in Dante Giotto, è pubblicato da Adelphi, 86 pagine, 7 euro. Qui troviamo la figura di Francesco che domina alcuni dei passi danteschi e il ciclo giottesco di Assisi, e il libro coglie il nesso che Cacciari descrive tra la visione del poeta e quella che l'artista ebbero del grande santo e rifondatore religioso, una visione che di nuovo si collega al tema dal quale siamo partiti, perché secondo Cacciari il confronto con la spiritualità francescana è certamente decisivo nella strutturazione della commedia, altrettanto nella formazione del linguaggio del ciclo di Assisi. E poi aggiunge l'autore: proprio dalla diversità degli esiti emerge il santo traditus. Possiamo anzi già saltare alle conclusioni. In nulla Francesco è più profondamente imitazione del suo Cristo che nell'essere tradito. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di tradimento, di gola, di sentimenti vari, allora parliamo della paura, con il libro Il domatore del vento di Alberto Pellai, illustrato da Yulia Gromskaya, pubblicato da Erickson, 13,50 euro. Il libro contiene anche un CD. Qualche contrattempo, che per un bambino naturalmente assume delle dimensioni apocalittiche, determina nel protagonista una autentica paura per il vento, dalla quale riuscirà a liberarsi con l'aiuto del papà.